Ora siano lodati Gesù e Maria. Sempre. Allora, con l'aiuto della Madonna, questa sera cominciamo un ciclo molto interessante e anche molto istruttivo, che è il ciclo di Saul e di Davide. Questa sera, se il Signore ci aiuta, vedremo la storia di Saul. Una storia abbastanza, come dire, inquietante, ma al tempo stesso molto edificante, nel senso che, come sovente accade, le storie negative ci fanno comprendere quello che non si deve fare per piacere al Signore, perché Saul è il classico esempio. Guardate, per certi aspetti sembra molto simile a quel poco che noi sappiamo della figura di Giuda, l'apostolo, non Giuda quello buono, ma Giuda quello cattivo, che vedremo insomma nelle sue caratteristiche presentare molti tratti in comune con l'apostolo fedifrago e traditore. Una persona super dotata che aveva ricevuto tanti doni da parte dell'Altissimo, che purtroppo anziché usare quei doni per il bene, ne ha fatto la causa della sua rovina. Quindi è una storia abbastanza, insomma, sconcertante, però vi ripeto, al tempo stesso molto edificante, perché ci dà un monito severo, insomma, su come non si devono mal utilizzare le grazie dell'Altissimo. Qui però siamo ancora tanto bene, vediamo un po' che non ci siamo. Vabbè, almeno adesso. Allora, ma vediamo subito questa storia di Saul. Ok. No. Allora, la storia di Saul, vi ricordate la volta scorsa abbiamo fatto il libro dei giudici. Allora, dopo i libri dei giudici vengono i due libri del profeta Samuele. La volta scorsa siamo fermati al capitolo 8 del primo libro di Samuele, dove abbiamo visto la vocazione di la nascita e la vocazione di Samuele. E abbiamo visto come a un certo punto Samuele, diciamo che è il primo profeta carismatico, diciamo così, e gli israeliti si recano da lui a dirgli: adesso basta con tutta questa storia dei giudici, noi vogliamo un re come tutti gli altri, quindi un re con la corona che ci governi, eccetera eccetera. Samuele era contrario a questa cosa, ma a un certo punto Dio gli dice: fa quello che ti chiedono, perché loro non hanno rinnegato te chiedendo questa cosa, ma hanno rinnegato me. Ecco, quindi riprendiamo il capitolo 9, dove comincia la storia di Saul, e prosegue ciò in cui ci eravamo fermati, insomma, la settimana scorsa, appunto con la storia del primo re di Israele ufficiale, che è la storia di Saul. Questa prima slide che vediamo si chiama dall'elezione alla riprovazione, che fa, sarebbe quasi, insomma, fa un rapidissimo percorso. Chi vuole chiaramente approfondire, è bene che se la legga la storia di Saul in tutti i capitoli, anche ci sono alcuni passaggi, alcune sezioni un po' minori che possono anche sembrare un pochino noiose. Qui seguiremo un percorso che individua alcuni tratti salienti per far comprendere un pochettino l'evoluzione di quest'uomo. Anzitutto leggiamo l'incontro con Samuele e la consacrazione, che si trova nei capitoli 9 e 10 del primo libro di Samuele, che adesso andremo a vedere insieme. Allora, c'era un uomo della tribù di Beniamino chiamato Chis. Chis è il padre di Saul. E va bene. Costui aveva un figlio chiamato Saul, prestante e bello. Era prestante e bello. Non c'era nessuno più bello di lui tra gli israeliti. Superava dalla spalla in su chiunque altro del popolo. Già questo è un primo accostamento con Giuda, perché sembra che Giuda fosse un bellissimo ragazzo. proprio bello. Ecco. Non sempre la bellezza esteriore va d'accordo con la bellezza interiore. A un certo punto qui c'è tutta tanta la storia di queste asine di Chis, del padre di Saulo, che si smarriscono, vabbè, e viene mandato Saul a cercare ste asine. Adesso c'è tutta quanta la storia un po' pittoresca di queste famose, per chi conosce un po' la Bibbia, asine di Saulo. Comunque noi andiamo avanti e andiamo direttamente al versetto 15, dove troviamo Samuele che riceve queste parole del Signore. Il Signore aveva rivelato all'orecchio di Samuele un giorno prima che giungesse Saul: domani a quest'ora ti manderò un uomo della terra di Beniamino e tu lo ungerai come capo del mio popolo Israele. Egli salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei, perché io ho guardato il mio popolo, essendo giunto fino a me il suo grido. Voi ricordate che appena giunta nella terra promessa, Israele si trova, come tutta la sua storia, sotto assedio, perché prima deve combattere con tutte le popolazioni che trova nella terra promessa, e poi cominciano le guerre contro le popolazioni limitrofe. Sapete che la Filistea, conoscete un po' di geografia, si trova al confine sud-ovest con la Palestina, tuttora oggi. E ci sono state molte guerre, molte, diciamo, diatribe tra gli abitanti della Palestina e i Filistei, che avevano manie e smanie conquistatrici anche al di fuori del loro territorio. Quando Samuele vide Saul, il Signore gli confermò: ecco l'uomo di cui ti ho parlato, costui reggerà il mio popolo. Quindi vedete che c'è un'elezione di Dio su questo re. Samuele rispose a Saul, Saul si accostò a Samuele in mezzo alla porta e gli chiese: indicami per favore la casa del veggente. Vedete che Samuele viene chiamato il veggente perché lo spirito profetico di Samuele, diciamo così, discese direttamente dall'alto, era una figura carismatica, come noi la chiameremo oggi. Samuele rispose a Saul: sono io il veggente, precedimi su all'altura, oggi voi due mangerete con me, ti congederò domani mattina e ti darò indicazione di tutto ciò che è in mente. Riguardo poi alle tue asine smarrite 3 giorni fa, non stare in pensiero perché sono state ritrovate. A chi del resto appartiene quel che c'è di prezioso in Israele se non a te e a tutta la casa di tuo padre? Rispose Saul: non sono io forse un beniaminita della più piccola tribù di Israele? E la mia famiglia non è forse la più piccola fra tutte le famiglie della tribù di Beniamino? Perché mi hai parlato in questo modo? Ma Samuele prese Saul e il suo domestico e li fece entrare nella sala e assegnò loro il posto a capo degli invitati. Erano circa 30. Insomma, mangiano insieme Samuele e Saul, dopodiché finiscono il pranzo. Vado direttamente al versetto 27, qui giù, ve lo evidenzio. Quando furono scesi alla periferia della città, Samuele disse a Saul: ordina al domestico che vada avanti. E il domestico passò oltre: tu fermati un momento perché ti possa comunicare la parola di Dio. Samuele prese allora l'ampolla dell'olio. Vedete le origini remote dell'unzione? Venivano unti nell'Antico Testamento i re, i sacerdoti e i profeti. Questo tanto per fare una piccola parentesi. Questo gesto è passato nel nostro battesimo, perché noi veniamo unti con il crisma, quindi consacrati, e diveniamo in questo modo partecipi del sacerdozio di Cristo, della regalità di Cristo e della profezia di Cristo. Sono tutti quanti gesti che affondano le loro radici nell'Antico Testamento. Quindi quando c'è un'elezione divina, e anche l'autorità politica è una elezione, scusate, divina secondo la Bibbia, viene sempre dall'alto e viene manifestata da un uomo di Dio che unge l'eletto del Signore per questi compiti. Sono compiti sacri, sia l'essere sacerdote, sia l'essere re, andiamo a dire oggi i nostri governanti, sia l'essere profeta, cioè parlare a nome di Dio. Samuele non era stato unto, ma quando i profeti sarebbero diventati figure istituzionali, tutti quanti avevano l'unzione. Quindi prese l'ampolla dell'olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò dicendo: non ti ha forse unto il Signore come capo della sua eredità? Ok, salto qualche versetto. Lo spirito del Signore, versetto 6, irromperà anche su di te, ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un altro uomo. quando questi segni che ti riguardano saranno accaduti, farai quanto vorrai perché Dio sarà con te. Scenderai a Galgala precedendomi ed ecco ti raggiungerò per offrire olocausti ed immolare sacrifici di comunione. 7 giorni aspetterai finché io verrò da te e ti indicherò quello che dovrai fare. Insomma, passano questi 7 giorni e Saul profetizza come gli era stato predetto da Samuele. Dopodiché Samuele torna e offrono un sacrificio con cui viene ratificata l'unzione di Saul come re di Israele. Andiamo direttamente al versetto 24. Samuele disse a tutto il popolo radunato: vedete dunque che il Signore ha eletto, vedete dunque chi il Signore ha eletto, perché non c'è nessuno in tutto il popolo come lui. Tutto il popolo proruppe in un grido: viva il re. Samuele espose a tutto il popolo il diritto del regno e lo scrisse in un libro che depositò davanti al Signore. Poi Samuele congedò tutto il popolo perché ognuno tornasse a casa sua. D'accordo? Quindi questa è la storia della vocazione ed elezione di Saul. Subito dopo, purtroppo, appare la prima disobbedienza grave di Saul, molto grave. Siamo nel capitolo 13, ai versetti dal 7b al 15. Andiamo subito a prendere. Allora, battaglia contro i Filistei. Allora, gli ordini erano stati questi, che Samuele aveva detto a Saul: vai dai Filistei, combattili, vincili e distruggi tutto quello che trovi. Allora, Saul restava a Galgala e tutto il popolo che era con lui si impaurì. E aspettò tuttavia 7 giorni per l'appuntamento fissato da Samuele, ma Samuele non arrivava a Galgala e il popolo cominciò a disperdersi da lui. Allora Saul diede l'ordine: portatevi in olocausto i sacrifici di comunione. Ah no, aspettate, questo è un altro. Quindi offrì l'olocausto, attenti a questo particolare. L'altra disobbedienza era l'altra. Quindi Saul combatte, vince e poi compie questa gravissima disobbedienza, perché usurpa un gesto sacerdotale. Samuele, che oltre che profeta era sacerdote, non c'era, e lui prende e offre un sacrificio prima che arrivasse Samuele. Quindi usurpa una funzione che non era la sua. Vedete, appena ebbe finito di offrire l'olocausto, giunse Samuele e Saul gli uscì incontro per salutarle. Samuele gli disse: ma che hai fatto? Saul rispose: vedendo che il popolo si disperdeva lontano da me e tu non venivi all'appuntamento mentre i filistei si riunivano a Micmas, ho detto: ora scenderanno i filistei contro di me a Galgala mentre io ancora non ho placato il Signore. Perciò mi sono fatto ardito e ho offerto l'olocausto. Rispose Samuele a Saul: hai agito da stolto, non osservando il comando che il Signore tuo Dio ti aveva dato, perché in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre. Invece il tuo regno non durerà. Il Signore si è già scelto un uomo secondo il suo cuore e gli comanderà di essere il capo del suo popolo, perché tu non hai osservato quanto ti aveva comandato il Signore. Ma già questo episodio fa capire bene la psicologia di Saulo, perché poi la seconda sarà più grave ancora della prima. State attenti, perché su Saul ci potremmo fare una catechesi che finisce a mezzanotte di domani sera, perché veramente sono stati fatti anche convegni e cicli di esercizi spirituali sulla figura di Saul. Allora, Saul è l'immagine di quelli che fanno così. Dio dice di fare alcune cose direttamente attraverso la sua legge, oppure attraverso qualche suo rappresentante, o attraverso il confessore, attraverso chi ti pare. E invece dicono: allora, sì, bisognerebbe fare così, però in questa circostanza si può tranquillamente fare colà. cioè si autodanno delle dispense anche su cose abbastanza serie, abbastanza gravi. Quindi il problema di Saul è un problema di superbia che genera la disobbedienza a Dio. Il tenore di questo testo ci fa capire quanto Dio ha a cuore l'obbedienza, perché se Saul non avesse fatto questa cosa, gli ha detto Samuele, in questa occasione il Signore avrebbe reso stabile il tuo regno su Israele per sempre. Quindi la grande catechesi su Saul è rivolta a quelli che si mettono in testa, nelle cose di Dio, di fare di testa propria, autodandosi alcune dispense, che non possiamo farlo questa cosa qui. Adesso per esempio noi abbiamo perso tantissime cose, però se leggete il diritto canonico, tuttora adesso, per esempio, l'astinenza dalle carni il venerdì o il digiuno. Anticamente era chiaro che se io mi trovo in difficoltà e non posso farlo, che si deve fare secondo voi? Si va dal parroco e si chiede: senta signor parroco, io oggi devo fare una cosa, che posso essere dispensato dall'astinenza dalle carni? Il signor parroco, che è sempre buono, dice: ma certo figlio mio. Ecco, ma non ti puoi autodispensare, devi andare dal signor parroco a darti la dispensa, perché il signor parroco ha l'autorità canonica di dispensare. Questo vale tuttora oggi, anche se nessuno lo sa, dare leggi ecclesiastiche. Tu non ti puoi autodispensare, devi chiederlo. Invece stanno l'immagine di quello che si arroga prerogative e diritti che non sono sue, che è proprio di uno spirito superbo. E questa è causa di riprovazione da parte di Dio. Terribile la storia. Adesso vedremo adesso subito il secondo grave incidente, che per certi aspetti è ancora più edificante. Dio ripudia Saul a seguito di questo secondo incidente. Già qui aveva detto: avevo deciso di rendere stabile il tuo regno per sempre. Già questo te la sei giocata. La seconda disobbedienza causa una conseguenza ancora più grave, e istantanea e immediata. Si trova nel capitolo 15, che adesso andremo a vedere. Allora, Samuele disse a Saul, seguite bene, questo è proprio il cuore dell'incontro di questa sera: il Signore ha inviato me per ungerti re sopra Israele e suo popolo. Ora ascolta la voce del Signore. Così dice il Signore: ho considerato ciò che ha fatto Amalek a Israele, come gli si oppose per la via quando usciva dall'Egitto. Va dunque, colpisci Amalek e vota allo sterminio quanto gli appartiene. Non risparmiarlo, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Tutto, pulire tutto. Ecco. Saul convocò il popolo, passò ad assegnare truppe a Telaim, erano 200.000 fanti, 10.000 uomini di Giuda, eccetera. Venne la città di Amalek e tese un'imboscata alla valle. Disse Saul ai Cheniti: andate via, ritiratevi dagli Amalleciti prima che vi distrugga insieme con loro, poiché avete usato benevolenza con tutti gli Israeliti quando uscivano dall'Egitto. I Cheniti si ritirarono da Amalek. Saul colpì Amalek da Avila in direzione di Sur, che è di fronte all'Egitto, e gli prese vivo Agag, re di Amalek, e sterminò fil di spada tutto il popolo. Attenzione, ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio del bestiame, cioè gli animali grassi, gli agnelli, tutto il meglio, e non vollero sterminarli. Invece votarono lo sterminio tutto il bestiame scadente e patito. Allora fu rivolta a Samuele questa parola del Signore: mi pento di aver fatto regnare Saul, perché si è allontanato da me e non ha rispettato la mia parola. Samuele si adirò e alzò grida al Signore tutta la notte. Al mattino presto Samuele si alzò per andare incontro a Saul, ma fu annunziato a Samuele: Saul è andato a Carmel, ed ecco, si è fatto costruire un trofeo, poi è tornato passando altrove ed è sceso a Galgala. Samuele raggiunse Saul e Saul gli disse: benedetto tu sia dal Signore, ho eseguito gli ordini del Signore. Ah sì, dice Samuele, Ma che è questo belar di pecore che mi giunge all'orecchio, questi muggiti di armento che odo? Da dove vengono questi qui? Si è distrutto tutto. Ci disse Saul: ah no, no, li hanno condotti qui gli amaleciti. Come il meglio del bestiame grosso e minuto. Guardate, questo è tremendo. Che il popolo ha risparmiato per sacrificarli al Signore tuo Dio. Cioè, mica ci riteniamo per noi, cioè, li abbiamo, cioè, dovevamo ammazzarli. Però, dice, ma questa bella mercanzia non la ammazziamo, ma la sacrifichiamo al Signore. Benissimo, no? Ecco. Ah, il resto l'abbiamo buttato allo sterminio. Io a qualcuno di voi lo conosco, rispose Samuele a Saul: lascia che ti annunci ciò che il Signore mi ha detto questa notte. E Saul gli disse: parla. Samuele continuò: non sei tu capo delle tribù di Israele, benché piccolo ai tuoi stessi occhi? Il Signore non ti ha forse unto re di Israele? Il Signore ti aveva mandato per una spedizione e aveva detto: va, vota allo sterminio quei peccatori di amaleciti, combattili finché non li avrai distrutti. Perché dunque non hai ascoltato la voce del Signore e ti sei attaccato al bottino e hai fatto il male agli occhi del Signore? Ah, Saulo poi insisté, guardate che chi, perché dopo perché non basta, dopo c'è stata pure la capoccia dura, ribatte, mica fa mea culpa, no, con te ribatte. Ah, ma io ho obbedito alla parola del Signore, per carità, perché ho fatto la spedizione che il Signore mi ha ordinato, ho condotto Agag e di Amalek, ho sterminato gli amaleciti, il popolo poi ha preso dal bottino bestiame minuto e grosso, primizi di ciò che ho votato allo sterminio, ma per sacrificare a Dio, al Signore tuo Dio, a Galgala. Quindi va bene. Samuele esclamò, questo, prendete questa frase, la scrivete su un bel foglio di carta, ci fate un bel quadretto, possibilmente in cornice d'oro che costa, e si attacca sopra il letto. Ma il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è meglio del grasso degli areti. State attenti, peccato di divinazione è la ribellione, e colpa e terafim l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. E questa sentenza, guardate, per Saulo è inappellabile, eh? Adesso guardate. Saulo disse allora a Samuele: ho peccato per avere trasgredito il comando del Signore e i tuoi ordini, mentre ho temuto il popolo e ho ascoltato la sua voce. Ma ora perdona il mio peccato e ritorna con me perché possa prostrarmi al Signore. Nine. Samuele rispose a Saul: non posso ritornare con te, perché tu stesso hai rigettato la parola del Signore. Il Signore ti ha rigettato perché tu non sia più re sopra Israele. Samuele si voltò per andarsene, ma Saul gli afferrò un lembo del mantello che si strappò. Samuele gli disse: oggi il Signore ha strappato da te il regno di Israele e l'ha dato a un altro migliore di te. D'altra parte, colui che ha la gloria di Israele non mentisce né può pentirsi, perché egli non è un uomo per pentirsi. Saul disse: ho peccato, ma onorami ora davanti agli anziani del mio popolo e davanti a Israele, ritorna con me perché mi possa prostrare al Signore tuo Dio. Allora Samuele, per umana pietà, ritornò con Saul e questi si prostrò davanti al Signore, ma tanto non cambia la sentenza. Poi Samuele disse: conducetemi a Agag, re di Amalek. Agag avanzò in catene verso di lui e disse: certo è passata l'amarezza della morte. Samuele l'apostrofò: come la tua spada ha privato di figli le donne, così tra le donne sarà privata di figli tua madre. E Samuele abbatté Agag davanti al Signore a Galgala. Però era troppo tardi. Samuele andò quindi a Rama e Saul a casa sua, a Gaba di Saul. Samuele non rivide più Saul fino al giorno della sua morte. Ma Samuele si piangeva per Saul, perché il Signore si era pentito di aver fatto regnare Saul su Israele. È drammatica questa storia qui. Ecco. Allora, guardate che il saulismo, cioè, domenica scorsa c'era la predica sulla lamentosi, ma il saulismo ce l'abbiamo tutti, quanti, nessuno escluso. Ecco. Il saulismo è l'atteggiamento di chi? Io voglio servire il Signore, d'accordo? Però poi mi riadatto e mi riplasmo secondo il mio modo di vedere le cose che lui mi dice. Cioè lui dice A, io dico A1, non dico B, dico A1. Quindi questo non va bene. Poi quando viene Samuele, cioè il vostro personale e santo confessore, ovviamente per chi c'è un confessore diverso dal mio vale anche santo, per chi sono io è soltanto personale, che dice: uè, che hai fatto? Guarda che non è esattamente quello. Ah no? Guarda, mo ti spiego. Cioè, non è che. Ma io non l'ho fatto così, ma il motivo per cui l'ho fatto è buono. Cioè, quindi quello che ho fatto io di testa mia dà maggiore gloria al Signore di quello che Lui vuole. Questo è tremendo, questo qui, eh? Guardate, questa è una tentazione diabolica terribile. Il passo di Saulo è drammatico perché Saulo per questo si è giocato il regno di Israele irrevocabilmente, cioè, capite? Sembra quasi che con questo peccato Dio abbia perso la fiducia in lui. Se tu fai così, tu re non puoi essere. Dobbiamo fare attenzione, perché questo vale anche nel nostro consorzio umano, perché il perdono va sempre bene, però quando uno la fa grossa, anche nel rapporto interpersonale, perde la fiducia l'ha persa. Noi dobbiamo fare sempre estrema attenzione, perché è tutto quanto riparabile, però per conquistarsi la fiducia di qualcuno ci vogliono gli anni, per perderla basta un minuto, basta che uno la faccia troppo grossa. Quindi su questo dobbiamo fare estrema e somma attenzione, ricordando il cuore di questo capitolo. Dice no, cioè, perché delle volte il diavolo ci tenta, perché ci mette in testa questa cosa, quello che ti viene nella testa tua è migliore di quello che Dio ti ha detto, è ancora meglio. È terribile questa cosa. È migliore quello che viene dall'obbedienza chiara quando si tratta di un precetto divino esplicito, oppure dall'obbedienza mediata quando si tratta di un'indicazione che ci viene attraverso qualcuno dei mediatori che Dio costituisce come mediatore legittime sulle nostre vite. E non bisogna uscire da queste cose, perché l'obbedienza è il sacrificio in assoluto più gradito a Dio, più di tutte le penitenze più cruente che uno si possa inventare, più di tutto. Il pentimento quindi non ha più effetto? Allora, il pentimento, qualora ci fosse, ma qui Saul non è veramente pentito. Qui Saul fa il pianto del coccodrillo causato dal fatto che si rende conto di aver perso il regno, non è pentito. Perché Saulo, adesso poi lo vedremo, Saulo era ambizioso. Ecco. Tuttavia, questo è vero, cioè il perdono di Dio è sempre possibile nella disciplina del Nuovo Testamento. Però il fatto che a causa di un guaio che tu combini, come dire, Dio ti toglie una missione che ti aveva dato, è possibile tuttora adesso. Fermo restando la possibilità della riconciliazione personale. Cioè, questa vicenda ci fa capire che alcune stupidaggini grosse che noi possiamo fare hanno delle conseguenze, che restano e che a volte sono irreversibili. Cioè, questo si capisce bene, non serve fare esempi per alcuni tipi di peccati. Tanto per fare un esempio, una ragazzina che fa la cretina e perde la verginità, dopo voglia piagne, ma la verginità ce l'ha più. Ecco, per esempio, no? Quindi ci stanno delle sciocchezze che uno fa, che già l'esperienza umana della vita ci insegna che sono atti irreversibili. Una volta che tu l'hai fatto, puoi ripensarci, puoi pentirti, ma non puoi cancellare le conseguenze che quell'atto ha causato. Quindi bisogna fare attenzione ad alcune storie, no? Come quando chi ha la lingua senza padrone. Bisogna fare attenzione, perché lo stupido dice quello che pensa, noi dobbiamo pensare quello che si dice, perché tu stai arrabbiato, ne spari una grossa quanto una casa, e dopo voglia di era arrabbiato, ma non la penso veramente. Quelle parole possono scavare un solco dentro un cuore, non si dicono. È davvero brutta brutta e inquietante la vicenda di Saul, però ripeto, brutta e inquietante, però edificante. E non è finita, perché voi vedete che va a succedere dopo. Perché dopo il ripudio, ecco, anziché fare mea culpa, che succede? Adesso si interseca la storia di Saul con quella di Davide. Peggio che andare di notte. La seconda parte del primo libro di Samuele. Allora, abbiamo innanzitutto l'elezione di Davide, quindi ripudiato uno, viene eletto un altro. Lo leggiamo, questo spero che lo conosciate, insomma, l'elezione di Davide. Abbiamo lasciato Samuele che piange, vedete? Come quando il padre spirituale vede un sciocco, ecco, sapeste che ha fatto una cretinata grossa quanto una casa e si rende conto che ha percorso una via di non ritorno. A me è successo questo fatto qui, più di qualche volta. Il Signore disse a Samuele: fino a quando piangerai su Saul? Mentre io l'ho ripudiato perché non regni su Israele. Riempi d'olio il tuo corno, facciamo un'altra unzione e parti. Ti mando da Jesse il Betlemmita. Betlemmita, Betlemme, Jesse, il papà di Davide. Perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele rispose: ma come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà. Allora il Signore soggiunse: prenderai con te una giovenca e gli dirai: sono venuto per sacrificare al Signore. Vabbè, insomma, arriva Samuele, Jesse gli va incontro, gli anziani vanno incontro, dice: pacifica la tua venuta. Rispose: è pacifica. Versetto 5: sono venuto per sacrificare al Signore, santificate e provenite con me al sacrificio. Fece santificare anche Jesse i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Questo era un altro Saul, bel fisico, 2 metri, bell'aspetto. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua statura alta, io l'ho scartato, perché non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Altra frase da incorniciarsi e mettersela sopra il letto. Allora che succede? Passano davanti i primi 7 figli di Jesse. Ovviamente c'è prima il primogenito, ma i prediletti del Signore sono gli ultimi geniti. Ogni riferimento a persone o fatti realmente esistenti è puramente casuale. Insomma, a un certo punto passano avanti tutti questi figli. All'ultimo manco l'avevano calcolato, perché era un ragazzino, era. Allora, insomma, alla fine passano tutti i suoi 7 figli, versetto 10, e Samuele dice a Jesse: attenzione, qui il Signore non ha scelto nessuno fra questi, che vogliamo fare? Mi ha detto che uno dei figli tuoi era stato scelto, che facciamo? E Samuele chiese a Jesse: ma sono qui tutti i tuoi giovani? Dice: ma veramente rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il greggio, manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che gli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Samuele si alzò e andò a Rama. Adesso comincia la lenta discesa di Saul, perché non è finita la questione. Adesso vedrete che combina. Lo spirito del Signore si era ritirato da Saul e cominciò a turbarlo un cattivo spirito venuto dal Signore. Non fate caso, è venuto dal Signore, perché questo, non so se ve l'ho già detto, è il modo tipico di parlare della letteratura semitica, che siccome è come quando indurì il cuore del faraone, lo ricordate, che come Dio è la causa prima di tutte le cose, viene attribuito direttamente a Dio nella Sacra Scrittura. Si vede nell'Antico Testamento anche la causa del male. Lo spirito, questo è uno spirito demoniaco che il Signore ha permesso che tormentasse Saul a causa della sua riprovazione. Certamente non è che ce l'avesse mandato come causa intenzionale. A Allora i servi di Saulo gli dissero: ecco, un cattivo spirito di Dio ti turba. Comandi il Signore nostro ai servi che gli stanno intorno e noi cercheremo un uomo abile a suonare la cetra. Quando il cattivo spirito di Dio sarà su di te, quegli metterà mano alla cetra e ti sentirai meglio. Chi è che suonava la cetra davanti a Saul, secondo voi? Saul rispose ai ministri: ebbene, cercatemi un uomo che suoni bene e fatelo venire da me. Rispose uno dei domestici: ho visto il figlio di Jesse il Betlemmita. Egli sa suonare ed è forte e coraggioso, abile nelle armi, saggio di parole e di bell'aspetto, il Signore è con lui. Saul mandò messaggero a dire a Jesse: mandami tuo figlio Davide, quello che sta con il gregge. Va bene, Davide giunse da Saul, cominciò a stare alla sua presenza, questi gli si affezionò molto e divenne suo scudiero. Quando dunque lo spirito di Dio era su Saul, Davide prendeva in mano la cetra e suonava, Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui. Ecco. Poi c'è il celebre episodio, penso che lo conosciate tutti, adesso non so se è il caso di andarlo a vedere. Vedete, qui c'è la slide di Jesse, di Samuel, scusate, che unge Davide re. Poi c'è l'episodio allora, primo grande episodio è Davide e Golia, penso che lo conosciate tutti quanti, ve ne andate, quindi non lo leggiamo dettagliatamente. Quindi primo Samuel capitolo 17 c'è la famosa singolar tensione e insomma Israele sta in guerra con i filistei, questi mandano fuori questo gigante a dire: chi è che affronta me? Dice: facciamo così, se qualcuno affronta me e mi vince, noi ci arrendiamo, altrimenti se qualcuno non riesce a vincermi, voi sarete schiavi dei filistei. Insomma, Davide si offre volontario, era un bambino, gli mettono tutta quanta l'armatura addosso. A certo, un certo punto Davide non si riusciva neanche a muovere, sentite, levatemi sta armatura che mo ce penso io. Davide si presenta lì vestito normalmente di fronte a st'armadio con la fionda in mano e con i cinque sassolini presi dal fiume, e Golia si arrabbia, questo forse è meglio andassero a leggere perché fa ride, che a un certo punto gli fa: allora, ecco, versetto 43. Il filisteo, 42, scrutava Davide e quando lo vide bene ne ebbe disprezzo, perché era un ragazzo fulvo di capelli e di bell'aspetto. Il filisteo disse a Davide: sono io forse un cane, perché tu venga a me con un bastone? E quel filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il filisteo disse a Davide: fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Davide rispose al filisteo: tu vieni a me con la spada, con lancia e con l'asta, io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio delle schiere di Israele che tu hai sfidato. In questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani, io ti abbatterò e ti staccherò la testa e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo agli uccelli del cielo e alle bestie selvatiche. Tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele. Tutta questa moltitudine, guardate la sapienza già di Davide, saprà che il Signore non salva per mezzo della spada o della lancia, perché del Signore è la guerra ed egli vi metterà certo nelle nostre mani. Vabbè. Davide prende poi la fionda, la pianta un sasso in mezzo alla fronte del filisteo, cade a terra, Davide gli salta sopra, prende la spada del filisteo e gli taglia la testa. Ok? Poi chiaramente l'eroe ritorna e Saul si accorge che questo ragazzino era ultra osannato. E quindi cosa succede dopo questo capitolo? Succede la gelosia di Saul, 1 Samuele 18, 6 e seguenti. Allora, ritornano in patria e chiaramente c'è il trionfo di Davide. Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, versetto 6, uscirono le donne da tutta la città di Israele a cantare e a danzare incontro a re Saul, accompagnandosi con i tamburelli. con grida di gioia e con sisti. Le donne cantavano danzando e dicevano: ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Ai ai ai. Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Diceva: hanno dato a Davide 10.000 e a me ne hanno dati 1000. Non gli manca altro che il regno. Così da quel giorno in poi Saul guardava sospettoso Davide. Il giorno dopo un cattivo spirito di Dio, questo è sempre il demonio, irruppe su Saul, il quale si mise a fare il profeta in casa. Davide suonava la cetra, perché ogni volta che c'era il demonio veniva placato dai calmi, dai suoni della cetra di Davide, e Saul teneva in mano la lancia. Saul impugnò la lancia pensando: inchioderò Davide al muro, ma Davide gli sfuggì per 2 volte. Saul cominciò a sentire timore di fronte a Davide, perché il Signore era con lui mentre si era ritirato da Saul. Saul lo allontanò da sé e lo fece comandante di migliaia, e Davide andava e veniva a cospetto del popolo, solo che Davide riusciva in tutte le sue imprese, poiché il Signore era con lui. Saul, vedendo che riusciva proprio sempre, aveva timore di lui, ma tutto Israele e Giuda amavano Davide, perché egli andava e veniva alla loro testa. Poi Saul gli dà in moglie la figlia, e però sta figlia poi si innamora di Davide. Allora, versetto 28, Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Mica, sua figlia, lo amava. Allora Saul ebbe ancora più timore e più paura nei riguardi di Davide, fu nemico di Davide per tutti i suoi giorni. I capi dei Filistei facevano sortite, ma Davide ogni volta che uscivano riportava successi maggiori di tutti i ministri di Saul e divenne molto famoso. Quindi, dopo la disobbedienza, guardate la sequenza, Saul è in potere del diavolo, quindi la disobbedienza ci consegna nelle mani dei nostri nemici e comincia a fare i peccati che oggi noi chiamiamo i peccati contro lo Spirito Santo. Qual è il peccato che sta facendo Davide? L'invidia della grazia altrui. È questa. Cioè, tu vedi uno che è migliore di te, vedi uno che è più santo di te, vedi uno che è benedetto da Dio più di te, anziché dire: giusto, questo è più bravo di me, io so peggio di lui, cerchiamo di imitare le sue virtù per diventare un po' meno cattivo, lo odi perché lui è meglio di te. Tema dei libri sapienziali, quando poi ci arriveremo lo vedremo: il giusto odia, l'empio odia il giusto e cerca di farlo morire, semplicemente perché c'è l'invidia. State attenti che l'invidia è una cosa brutta, peccato che molti commettono e quasi nessuno confessa, diceva Andreotti, che non è certamente un profeta, però su questa cosa ha abbastanza ragione. L'invidia generalmente prende su cose piccole. L'invidia è un vizio femmina. Tra l'altro quasi tutti i vizi sono femmine, lo superbia è femmina, l'avarizia è femmina, eccetera, eccetera. Ecco. E prende molto le femmine, le invidie e le gelosie varie. Ecco. Quindi attenzione a qualche femminuccia che sta qui a non cadere preda di questa brutta cosa. Non è finita però qui, perché dalla gelosia si passa al vero e proprio odio più avanti, nel versetto 17 e seguenti del capitolo 18 e poi nel capitolo 19. Quindi dal 17 al seguenti l'abbiamo già letto, e nel capitolo 19 i riferimenti sono, non mi ricordo, niente di serio. Allora, ci fu di nuovo la guerra, versetto 8, e Davide uscì a combattere i Filistei e inflisse loro una grande sconfitta, così che si dettero alla fuga davanti a lui. Ma un cattivo spirito del Signore fu su Saul, e gli stava in casa e teneva in mano la lancia, mentre Davide suonava la cetra. Seconda tentativo, Saul tentò di inchiodare Davide con la lancia nel muro, ma Davide si scansò da Saul, che infisse la lancia nel muro. Davide fuggì quella notte e si salvò. Saul mandò messaggeri alla casa di Davide per sorvegliarlo e ucciderlo il mattino dopo. Quindi a questo punto Davide, versetto 18, fugge, comincia la fuga, la prima delle grandi fughe di Davide, inseguito da Saul. D'accordo? Quindi, la situazione peggiora. Adesso vedremo come reagisce Saul di fronte, come reagisce Davide di fronte all'odio di Saul, che raggiunge, vedete, attenti all'escalation, disobbedienza, soggezione allo spirito cattivo, gelosia, odio, adesso follia, furore, omicidio. A un certo punto Davide, scappando, passa per Nob, dove alcuni sacerdoti lo aiutano, non lo andiamo a leggere. Saulo arriva, si accorge che questi sacerdoti hanno aiutato Davide e li massacra tutti quanti di mano sua. Quindi, capite, l'escalation continua. Ora, nei capitoli 24 e 26 ci sono due episodi che a un certo punto Davide risparmia Saul. Adesso li andiamo a leggere almeno uno dei due. Allora, Davide da quel luogo salì ad abitare. Benissimo, ci troviamo in Engaddi. Allora, Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce dei Caprioli. Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada dove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongono le mani il tuo nemico, trattalo come tu vuoi. A Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, espressione molto bella questa, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato il lembo del mantello di Saul. Questo succede anche a noi quando facciamo qualche marachella, ci aumentano i battiti. A me tante volte è successo questa cosa qui. Quando ti fa qualcosa che non va agli occhi di Dio, si sente la tensione interiore. Poi disse ai suoi uomini: mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Vedete, Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini, non permise loro che si avventassero contro Saul. Uscì dalla caverna e tornò sulla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: o re mio signore. Vedete come lo chiama? Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Davide disse a Saul: perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. Mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché egli è il consacrato del Signore. Guarda, padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque che vedi che in me non c'è alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimerla. Sia giudice il Signore tra me e te, mi faccia giustizia al Signore nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico: dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito il re di Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce. Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te. Vede e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: è questa la tua voce, Davide, figlio mio? Vedete, i pianti del coccodrillo. Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora ecco, sono persuaso che certamente regnerai e che sarà saldo nelle tue mani il regno di Israele. Ma tu giurami ora per il Signore che non eliminerai dopo di me le mie discendenze e non cancellerai il mio nome dalla casa di mio padre. Questo è il primo episodio. L'altro si trova al capitolo 26. Non lo leggiamo, comunque è simile. Stavano sempre dormendo, accampati. Davide scende nell'accampamento del re e stavolta gli prende la lancia. Allora, versetto 12: Davide portò via la lancia e la brocca dell'acqua che era presso il capo di Saul. La mattina dopo si svegliano. Davide gridò alla truppa e ad Abner, che era il luogotenente di Saul, figlio di Ner: Abner, vuoi rispondere? Abner rispose: chi sei tu che gridi al re? E Davide rispose: non sei un uomo tu? E chi è come te in Israele? Perché non hai fatto la guardia al re tuo signore? È venuto uno del popolo per uccidere il re tuo signore. Tu non hai fatto una bella cosa, eccetera. Ora guarda dov'è la lancia del re e la brocca che era presso il suo capo. Saul riconobbe la voce di Davide e disse: è questa la tua voce, Davide, figlio mio? Rispose: è la mia voce, o re mio signore. Tenete presente che nel capitolo precedente era stato un altro capitolo di inseguimento. Aggiunse: perché il mio signore perseguita il suo servo? Che cosa ho fatto? Che male si trova in te, in me? Ascolti dunque il re mio signore la parola del suo servo. Se il signore ti incita contro di me, voglio accettare il profumo di un'offerta, ma se sono gli uomini, siano maledetti davanti al signore, eccetera, eccetera. Secondo episodio, vedete, con il contrasto tra l'odio di Saul e Davide, che in questo frangente è figura di Gesù, perché mette in pratica per la prima volta il comandamento di amare il nemico, e lo fa mosso dal fatto che quello è il consacrato del Signore, che non si tocca. Ora stiamo per chiudere, ultimo capitolo del declino di Davide, quindi l'odio, massacro dei sacerdoti, cerca di uccidere Davide e continua a perseguitarlo nonostante che la prima volta fosse stato risparmiato da lui quando gli taglia il lembo del mantello. L'ultima che fa, il peccato di divinazione. Con questo proprio sapete cos'è la divinazione. Capitolo 28, Davide si reca in un postaccio di Israele di nome Endor da una strega. Tenete presente che Samuele era morto nel frattempo. Allora, lui si ritrova un'altra volta nei guai, perché i filistei stanno riassediando Israele. Chiaramente Davide stava scappando, Davide vinceva tutte le battaglie, Saul si sentiva non all'altezza, c'ha paura. Versetto 5: quando Saul vide il campo dei filistei, ebbe paura e il suo cuore tremò. Saul consultò il Signore, al Signore non gli rispose, né attraverso i sogni, né mediante gli Urim, né per mezzo dei profeti. Allora Saul disse ai suoi ministri: cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla. I suoi ministri gli risposero: via una negromante a Endor. Saul si camuffò, si travestì e partì con due uomini. Arrivò da quella donna di notte e disse: pratica per me la divinazione mediante uno spirito, evocami colui che ti dirò. La donna gli rispose: tu sai bene quello che ha fatto Saul, ha eliminato dalla terra i negromanti e gli indovini. Saul, perché dunque tagli un tranello alla mia vita per uccidermi? Saul le giurò per il Signore: per la vita del Signore non avrei alcuna colpa per questa faccenda. Ella disse: chi devo evocarti? Rispose: evocami Samuele. La donna vide Samuele e proruppe in un forte grido e disse a Saul: perché mi hai ingannata? Tu sei Saul. Le rispose: non aver paura. Che cosa vedi? La donna disse a Saul: vedo un essere divino che sale sulla terra. Le domandò: che aspetto ha? È un uomo anziano che sale ed è avvolto in un mantello. Saul comprese che era veramente Samuele e si inginocchiò con la faccia a terra e si prostrò. Allora Samuele disse a Saul: perché mi hai disturbato evocandomi? Saul rispose: sono in grande angustia, i filistei mi muovono guerra e Dio si è allontanato da me, non mi è più risposto né attraverso i profeti né attraverso i sogni, perciò ti ho chiamato perché tu mi manifesti quello che devo fare. Samuele rispose: perché mi vuoi consultare quando il Signore si è allontanato da te ed è divenuto tuo nemico? Il Signore ha fatto quello che ha detto per mezzo mio, ha strappato da te il regno e l'ha dato a un altro, a Davide. Poiché non hai ascoltato la voce del Signore e non hai dato corso all'ardore della sua ira contro Amalek, ricordate l'episodio da cui siamo partiti, per questo il Signore ti ha trattato in questo modo. Il Signore metterà Israele con te nelle mani dei filistei, domani tu e i tuoi figli sarete con me. Il Signore metterà anche le schiere di Israele in mano ai filistei. All'istante Saul cadde a terra lungo, disteso, pieno di terrore per le parole di Samuele. Inoltre era già senza forze perché non aveva mangiato nulla tutto quel giorno e tutta quella notte. La donna si accostò a Saul e vedendolo sconvolto gli disse: ecco, la tua serva ha ascoltato la tua voce, ho esposto a pericolo la mia vita per ascoltare la parola che tu mi hai detto. Ma ora ascolta anche tu la voce della tua serva, voglio darti un pezzo di pane, mangia così riprendere le forze, eccetera. Cosa succede il giorno dopo, secondo voi? Il giorno dopo succede che Saul muore. Versetto 31, capitolo 31, c'è questa grande battaglia con i filistei chiaramente fanno man bassa e uccidono Saul. I filistei si stinsero attorno a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte tutti i luogotenenti, Jonathan, eccetera, eccetera. E Saul disse al suo allora la battaglia si concentrò intorno a Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito gravemente dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiere: sfodera la spada e trafiggimi prima che vengano quegli incirconcisi a trafiggermi e a schernirmi. Ma lo scudiero non volle perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e vi si gettò sopra. Vedete l'altra assonanza con Giuda: muore, suicida. Vi ricordiamo tutto l'altro escalation, dalla disobbedienza alla negromanzia alla morte suicida. Tutto questo partito, vi ricordate? Prima disobbedienza, si era messa a fare ciò che non deve fare, usurpato i poteri di un sacerdote. E la seconda volta gli era stato detto: fai piazza pulita di tutto, e aveva conservato qualcosa per fini buoni. Quando dice: ho detto la bugia, ma l'ho detto a fin di bene. Ecco, poi finisce che nel capitolo primo del secondo libro di Samuele, cominceremo la prossima volta, tutti contenti vanno a dire a Davide: Saul è morto, Saul è morto, Saul è morto. E praticamente questo qui, insomma, la malecita che gli va a portare la notizia della morte di Saul, che pensava di dare una bella notizia, dal momento che Saul, che questa malecita ha detto che, perché poi Saul si suicida ma non riuscì a morire, gli va vicino questo qui e lo finisce. Lo riferisce a Davide, versetto 9, mi disse: gettati sopra di me e uccidimi, io sento i brividi ma la vita è ancora tutta in me. Io gli fui sopra e lo uccisi perché capivo che non sarebbe sopravvissuta. Poi presi il diadema che era sul suo capo e la catenella che aveva al braccio e li ho portati qui al mio signore. Quindi dice: adesso Davide farà un monumento. Allora, Davide chiamò uno dei suoi giovani, versetto 14: come non hai temuto di stendere la mano per uccidere il consacrato del Signore? Davide chiamò uno dei suoi giovani e gli disse: accostati e aggrediscilo. Egli lo colpì subito e quegli morì. Davide gridò a lui: il tuo sangue ricada sul tuo capo, attesta contro di te la tua bocca che ha detto: io ho ucciso il consacrato del Signore. Non solo, Davide fa lutto, fa il lutto e fa il lamento, come si vede nei versetti 19 e seguenti. Il tuo vanto, Israele, sulle tue alture giace trafitto, come sono caduti gli eroi, eccetera, eccetera. O spada di Saul, versetto 22, non tornava mai a vuoto. Saul e Jonathan, amabili e gentili, né in vita né in morte furono divisi, erano più veloci delle aquile, più forti dei tuoni. Figlie di Israele, piangete su Saul, eccetera, eccetera. Quindi, ho detto che era una storia un pochino drammatica, quindi ci fermiamo e la vicenda di Saul deve essere ampiamente meditata, perché ci fa capire come si parte da una disobbedienza piccola, medio, grande e dove si può arrivare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come erano in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.